tutti. Allora, in questo momento stiamo picchettando, occupando la sede centrale, insomma, di rappresentanza della Blue Panorama Airlines, una di quelle linee, di quelle compagnie aeree che mette a disposizione, mette in servizio per quella faccenda sporca che il ministro Pisano chiama trasferimenti, ma che in verità va pronunciata con il suo vero nome, la faccenda delle deportazioni dei cittadini migranti, di quelle persone che clandestine, appunto, sprovviste di carta, sprovviste di permesso di soggiorno, vengono considerate in quanto tali illegali e vengono trasportate senza norme, senza diritto, senza nessuna forma di garanzia, o in un CPT o in un centro, appunto, di permanenza temporanea, quei nuovi lager contemporanei, appunto, istituiti dal centro-sinistra nei precedenti governi, o appunto vengono riportati, rigettati indietro. Si tratta di gente che molto spesso viene da paesi insomma, dove ci sono guerre, sofferenze pesantissime, e a loro tocca una doppia sofferenza: quella della guerra che vivono in casa, che è sempre più guerra globale, connessione globale, guerra civile globale come terreno nuovo della determinazione del comando, e la sofferenza e la tortura di essere battuto dentro luoghi extragiuridici, extralegali, dove dentro quei laboratori, diciamo, di sperimentazione dello stato d'eccezione permanente in casa nostra. In casa nostra intendo l'Europa, perché l'azione di oggi chiaramente è azione fatta da attivisti e precari di ESC, dell'Astra e di Action, è un'azione che si mette in connessione con la giornata europea di mobilitazione per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza e contro i lager e le deportazioni, che è stata lanciata a Londra, alla Middlesex University, dalle reti di movimento dei precari, dei migranti, e che è stata ripresa poi successivamente in due grandi assemblee europee, una a Berlino e una a Parigi, e che avrà il cuore di mobilitazione, diciamo, nella giornata di domani. Noi ci siamo sentiti di anticipare questa cosa proprio per parlare della giornata di domani, dove qui a Roma si muoveranno gran parte dei coordinamenti dell'auto-organizzazione migrante per una, insomma, per una manifestazione, con un'azione che parli a quella manifestazione stessa, ma che in generale parli a quell'arcipelago vasto, articolato, di lotte, di conflitti che tra oggi e domani si dispiegheranno, appunto, sul piano europeo, e che, insomma, metteranno al centro la questione insomma, della cittadinanza, di quel tessuto materiale e formale di diritti di cittadinanza, che sono l'unica spinta e sfida possibile sul terreno europeo. Se Europa deve essere, e Europa vogliamo, deve essere un'Europa pienamente post-nazionale, dove nessun cittadino può essere considerato, appunto, illegale, nessuna persona può essere illegale. Noi siamo qui, stiamo chiedendo un incontro con la direzione, la richiesta chiaramente è quella di, oltre in questo momento di praticare il blocco del posto, di picchettarlo, ma è quella di sospendere ogni forma di relazione con il governo, insomma, stiamo incontrando una parte della direzione in questo momento. La questione poi estremamente interessante è che, nella sua drammaticità e carattere spietato, è questa faccenda del business della guerra, perché poi di questo si tratta, no? Entrando nel vivo anche della specificità di queste compagnie private che mettono a disposizione, appunto, linee private e che vengono gestite come dei veri e propri territori extralegali. Cioè, allora, quando diciamo guerra globale permanente e quando diciamo che i CPT, le deportazioni, sono i laboratori e le sperimentazioni della guerra globale nella sua dimensione interna, per esempio sulla prospettiva europea, sullo spazio e sull'orizzonte europeo, diciamo proprio questo, diciamo anche gli interessi economici, il business dell'ingiustizia e della guerra. Cioè, sappiamo come oggigiorno si fa soldi prendendo in appalto la gestione dei centri di permanenza temporanea, si fa soldi costruendo carceri o facendo carceri privati. La scorsa settimana ci eravamo ritrovati infatti ad occupare il Dipartimento Nazionale Politica Antidroga, mentre a Modena, molti attivisti si muovevano contro la faccenda della costruzione, o meglio dell'inaugurazione del carcere privato di Castelfranco Emilia. Insomma, c'è un tessuto di relazione tra queste cose, quanto è avvenuto la scorsa settimana, quanto avverrà oggi e domani, quanto avverrà nei giorni successivi, che è un tessuto che parla di diritto e forme di resistenza non di tifoseria della resistenza, ma di forme di resistenza pratiche, concrete, articolate, differenti, molteplici nei confronti della guerra globale che è appunto guerra sulle persone, restrizione degli spazi di democrazia e dentro questo paradigma di appunto di scontro e di separazione non sintetizzabile, non riconducibile a unità tra guerra e democrazia si gioca proprio la partita del diritto di resistenza, delle forme di esodo, dell'esodo attivo della cittadinanza europea che dice no deportazioni, non lager, nessuno può essere illegale. Io credo che questa sia la sfida, a maggior ragione se citavi questa cosa della Libia, là bisognerebbe aprire un discorso su questi accordi e su queste faccende legate all'estensione mobile e flessibile della frontiera che è anche esternalizzabile a un certo punto e quindi il trasferimento in altri luoghi delle dinamiche del controllo che sono luoghi no, variabili, geografie variabili del controllo. Su questa faccenda delle geografie variabili del controllo io credo che bisogna cominciare ad aprire in casa nostra. Noi siamo qui a due passi da Piazza Barberini nel centro di Roma, in una strada dove tra le altre di luoghi del controllo e della sperimentazione extralegale è pieno di banche di guerra, è pieno di agenzie interinali, di luogo cioè di extralegalità, di controllo e di sfruttamento del lavoro precario. Insomma, quindi questo è un po' per offrire un quadro del perché dell'azione di questa mattina.